sensore su 10, Black? No! ci brecche, brecche un attimo, brecche. Su 10 brecche, chi è? Avanti, avanti da sotterra, sì. 10 ora sono avanti, avanti, arrivi basso qua, comunque Uranio dalla collina sta di ultimo, K, con la buonasera, vieni avanti Cardio, mi stai vedendo il controllo di Santiago e Radio, se è possibile, a te Cardio, buonasera. No, il controllo di Santiago è 7, e Radio un po' bassina. Prova adesso a vedere, 1, 2, 3, prova, quando, se senti qualche miglioria, 1, 2, 3, prova, come adesso, prova, a te Cambio. No, è sempre la stessa, sempre la stessa. Ah, ok, va bene, ok, dai, perfetto. Strano, va bene, vai, riprendi ancora, tanto su chi dopo, vai, a te Cambio. Allora ti sei aumentato di segnale, ti sei aumentato a 9,5. Ma che sei, Natalino? Oh, Tore, ti ho detto che sono, Tore Squalo. Ah, Tore, ok. Non ho capito cos'è che hai detto. Ti sei aumentato a 9,5 adesso. Ah, allora c'è la miglioria, mi pare passare questo, ma mi sembra strano, 9,5. Sì, va bene, perfetto. La radio chiara è sì, perfetta? Ma non è perfetta, è un po' bassina, però si sente un po' di trambusto, non è chiara chiara. Ah, sì, va bene, va bene. Perfetto. Ok. E adesso com'è? 1, 2, 3, prova, vedi un po' se c'è stato qualche riabbassamento, 1, 2. La radio è sempre la stessa, il segnale è 9,5 sempre. Ok, va bene, dai, ti ringrazio, buon proseguimento di serata e salutoni cordiali, K. Ok, per me quello è sì, K, stiamo facendo qualche prova qua, niente, dai. E alla prossima magari, dai, ok, per me corretti, grazie dei controlli e niente, dai, buon proseguimento di serata, tu qua sta arrivando un segnale di 7, sta arrivando e la radio è bassina, è bassina, c'è una radio di 3K. Roger, non so la tua zona, però un segnale così, dai, per me comunque corretti e alla prossima, dai, ciao ciao, grazie del controllo e buonasera. Per cui ci risentiamo alle prossime. Ok.